versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio caro ascoltatore di Radio 24, e come sempre Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast della versione di Oscar e questo martedì 25 di luglio. E vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it. Naturalmente l'indirizzo, continuate a scrivere anche oltre questa settimana, perché io venerdì finisce la programmazione, quella inverno primavera, e l'agosto sapete che cambia il palinsesto, ma io continuerò a rispondervi in ogni caso. In questi giorni ci sono più che mai sul pezzo. Allora, la puntata di oggi è dedicata a un argomento che abbiamo seguito passo passo in questi anni, perché è la cosiddetta, tra virgolette, riforma del terzo settore, cioè l'attesa di un intervento organico per le migliaia di associazioni che compongono il mondo del no profit e del volontariato italiano, che coinvolge 4.700.000 italiani. Quindi io l'ho sempre indicato come il patrimonio di grandi, straordinarie risorse di coesione sociale che gli italiani profondono nelle loro attività di sostegno o di impegno diretto nel volontariato sociale, sanitario, beh, insomma, eccetera, eccetera. Allora, siccome negli anni è capitato più volte di riflettere, man mano che la riforma era in discussione in Parlamento, ora siamo arrivati al traguardo dei decreti attuativi della riforma, che è stata tenuta durante i governi Renzi in Parlamento nelle mani del sottosegretario Bobba. Abbiamo fatto anche due volte puntate con lui per riflettere su l'impianto di questa riforma, ed è venuto il momento di tirare un po' le fila, questa volta senza sentire i politici. Io devo dirvi la verità, sono un po' critico su molti aspetti, come sempre, ma gli aspetti su cui sono critico io sono la macchinosità del registro nazionale unico del terzo settore. Secondo me è stato comunque positivo definire con una certa precisione gli enti del terzo settore. Le agevolazioni fiscali e il regime fiscale per chi, iscrivendosi al registro del terzo settore, al registro unico ed essendo in regola con i requisiti, sarà quindi a tutti gli effetti un attore riconosciuto del sistema del terzo settore del privato sociale nel nostro paese, no profit, sono abbastanza accettabili. Il regime dei crediti privilegiati per il volontariato e delle donazioni ai fini di promozioni sociali che sono introdotti dalla legge, così cos'ha, secondo me si poteva fare meglio, a dire la verità. Faccio un solo esempio, perché gli aspetti tecnici sono infiniti, ma non voglio rompervi le scatole. Che cosa dispone da questo punto di vista la legge dei decreti attuativi? Descrive un credito d'imposta del 65% per i privati o del 50% per le società, gli enti, cioè le persone giuridiche, sulle erogazioni, quelle che si chiamano le erogazioni liberali, in denaro. Con due soglie distinte in base al tipo di soggetto, cioè la persona fisica o la persona giuridica. Per la persona fisica il 15% del reddito, per la persona giuridica il 5 per mille dei ricavi. Ecco, già questo 5 per mille dei ricavi io non mi trovo, perché per i grandi gruppi non vedo la fondatezza di mettere un limite di questo tipo qua. È chiaro che il fisco sospetta, in caso di erogazioni più importanti, che sia una maniera per perseguire improprie finalità. Secondo me il sospetto pregiudiziale dell'amministrazione tributaria italiana, quando si tratta invece di un regime fiscale che ci avvicini alle agevolazioni fiscali molto più rilevanti che nel mondo anglosassone hanno portato moltissime risorse, visto che quelle di Stato sono limitate, al mondo del terzo settore e degli impegni per chi ha meno, chi sta peggio, per gli anziani, e per il sostegno nel mondo a chi sta peggio, io questo, per esempio, tanto per farvi un esempio, no, non lo capisco. Anche le erogazioni liberali, cioè la detrazione del 30% per le erogazioni in denaro o in natura, che si incrementa fino al 35% nel rispetto di un tetto di 30.000 euro. Ma perché il tetto di 30.000 euro? Perché? Ve lo dico subito, ovviamente, perché lo Stato ha paura di perdere imponibile e quindi però continua a tenere, nel momento nel quale fa una riforma generale, un intervento generale di riordino del terzo settore, dell'intervento del no profit nella società, mette dei paletti sul nuovo regime di incentivi fiscali, che però derivano dalla sua paura di perdere gettito. Adesso, con tutto rispetto, potrei andare molto avanti, ma non vi voglio annoiare con queste cose qua. Ecco, Per me ci sono tre grandi punti interrogativi in questa riforma complessiva. Uno ve l'ho già detto, a me sembra molto macchinoso questo registro unico del terzo settore. Il secondo ve l'ho già detto, si poteva e si doveva fare di più per ampliare gli incentivi fiscali a chi dona, imprese o persone. Il terzo, ma ci arriveremo più avanti, è questa singolare Fondazione Italia Sociale che viene istituita, è un'idea di un imprenditore da sempre attivo, si chiama Manes, Vincenzo Manes, nel nostro paese in questo settore, è un grande finanziatore di Renzi, si sa che l'hanno messa nel decreto perché è una sua idea. Non capisco perché una fondazione i cui rapporti con il terzo settore non mi sono molto chiari dalla legge, non si capisce se sia un grande attore per finanziare aggiuntivamente risorse, nel qual caso non vedo perché e non vedo perché si debba passare per lei. Però questi sono i miei tre grandi dubbi, per così dire, in un complesso però di un intervento che è per la sua organicità molto positivo, perché risponde alle richieste che per decenni si erano accumulate a partire proprio dalle incertezze su chi avesse titolo o meno per essere terzo settore, sulle diverse legislazioni regionali e così via. Allora, per riflettere meglio, una voce alla quale abbiamo spesso fatto ricorso, cioè una voce di un'associazione che è impegnatissima nel mondo con progetti a favore di chi sta peggio, che sono progetti di offerta di formazione scolastica, professionale, esulanti, profughi di guerra e così via, l'AVSI, che conoscete perché più volte l'abbiamo ospitata, e grazie di essere con noi per fare una riflessione quindi dal loro punto di vista su alla fine come chi opera davvero sul campo considera questa riforma, Giampaolo Silvestri, che è il segretario generale dell'ANPSI. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio. Posso fare una domanda però? Siccome io so, sì, che lei è in Giordania, sì, prima di darci un giudizio sui miei tre dubbi, ma soprattutto su quello che voi considerate positivo o critico nei confronti della... Ci dice un po' la situazione lì, vista la tensione di questi giorni tra Israele e Giordania. Israele ha annunciato proprio ieri sera di rinunciare agli accessi telematici, ai gates sulla spianata del Tempio, e la cosa è stata presentata come se gliel'avesse chiesta il re di Giordania. Ma insomma, visto che state lì, che atmosfera avete toccato rispetto a dove siete voi, ai progetti in cui siete impegnati in Giordania? Beh, io adesso in questo momento parlo da Zarqa, cioè la città di Al-Zarqawi, sì, come noto, un posto un po' caldo, diciamo così, dove diciamo così l'estremismo islamico è abbastanza forte. Parlo dall'interno di una scuola cattolica a Zarqa che ospita 800 studenti cristiani e musulmani, quindi un posto un po' particolare. Un po' particolare. No, c'è tensione perché poi c'è stato questo attentato, comunque questa uccisione di due persone all'interno dell'ambasciata israeliana qua ad Amman. Ad Amman, con richiesta di Amman di consegnare l'operatore israeliano che ha fatto fuoco, a cui Israele, sì, ha detto no, ovviamente. Qui dai contorni ancora un po' poco chiari da quello che ho sentito qua arrivando ieri. No, il paese vive una grande tensione perché comunque ci sono 600-700 mila profughi siriani, qualche migliaio di profughi iracheni, quindi un peso importante sulle strutture dello Stato in un contesto già di per sé fragile. Chiaramente quello che sta succedendo in questi giorni a Gerusalemme si ripercuote anche qua, perché comunque dobbiamo considerare che la maggior parte della popolazione giordana è di origine palestinese, certo, mai da dimenticare, un elemento ulteriore di tensione, e quindi sì, il paese evidente si vive, si percepisce una tensione, su questo non c'è dubbio, su un equilibrio molto precario. Molto precario. Da questo punto di vista la figura del re, della monarchia, ha un ruolo molto importante, perché comunque non si può non riconoscere il ruolo sempre moderato che questa monarchia ha avuto in tutto il contesto della regione. Gli hascemiti, devo dire, ha perfettamente ragione anche secondo me, e Abdallah in particolare, rispetto a quello che le generazioni successive delle dinastie o regali o autocrate dei paesi del Medio Oriente hanno portato alla luce, se pensiamo a Bashar al-Assad, che Dio preservi Abdallah, voglio dire, da questo punto di vista. Assolutamente. Allora, veniamo a noi. Voi come complessivamente, ora che abbiamo il quadro complessivo anche dei decreti attuativi sui punti più fondamentali, giudicate questa grande opera molto reimpastata, rimasticata dalla politica di ridefinizione del terzo settore del nostro paese? Allora, il giudizio complessivamente è positivo, perché ci voleva dopo tanti anni, è un tentativo di riforma organica, cerca di superare tutte le varie legislazioni settoriali tra associazioni di promozione, volontariato, eccetera. Quindi c'è un tentativo organico. Vari decreti, decreto del terzo settore, 5 per 1000, servizio civile, impresa sociale, quindi questo è apprezzabile. Ci sono elementi positivi, il fatto di definire quali sono le attività, il fatto di una maggiore trasparenza, le campagne di raccolta fondi dovranno essere rendicontate entro un certo periodo, rese pubbliche, i bilanci fatti in un certo modo, l'obbligo della certificazione di bilancio e tutto sommato chiede anche al terzo settore di fare un salto. Questo io vedo per i piccoli enti non sarà semplice, perché pone tutta una serie di vincoli giusti se vogliamo fare un salto. Quindi tutto sommato il diritto è positivo. E gli elementi di perplessità... Aspetti, le faccio domande un po' sulle cose su cui io ho dubbi. Per esempio, secondo lei, nella nuova disciplina, quella della formalizzazione contabile e degli intrecci che sono resi possibili grazie a questo intervento di riforma ai privati nel no profit, nel senso che si apre alla possibilità di una certa possibilità di distribuzione degli utili delle imprese sociali in certe condizioni, si apre alla possibilità che soggetti profit, imprese, ma anche amministrazioni pubbliche possano partecipare all'interno della forma societaria del no profit. Ecco, dove ci sono questi intrecci qua, secondo il vostro giudizio, che siete attivi in moltissimi paesi al mondo, bene o non si poteva, secondo me, allargare ulteriormente le maglie? Io avrei preferito. Certo, come sempre si poteva fare di più anche in altri aspetti che lei ha evidenziato prima, però è già un primo passo. Come sempre dobbiamo sempre ragionare poi sulle cose fattibili, chiaro? Meglio nemico del bene, è un primo passo, certo si poteva usare un po' di più, permettere la distribuzione più ampia di utili, ampliare forse i settori, si poteva fare qualcosa in più, però sappiamo che siamo in Italia, ci sono certi vincoli, ci sono il ruolo dei sindacati, di certe burocrazie, quindi al momento forse era l'unico risultato possibile. È già positivo che ci sia, perché erano anni che ne parlavamo e non succedeva niente, quindi positivo che ci sia, certamente si poteva usare qualcosa di più. Ecco, io posso chiederle un secondo? Ecco, beh, no, vada alle sue perplessità allora, vediamo. No, le mie perplessità sono un po' anche quelle che diceva lei. Giuro che non ci eravamo parlato. No, sull'aspetto fiscale chiaramente si poteva usare di più, si poteva togliere qualche tetto, il tetto dei 30.000 come ha detto lei, invece che il 30% della detrazione, chiaro. In altri paesi siamo a 50-100% della esattamente, siamo a 50-100% che c'è un problema di contabilità, di copertura, ho capito, facciamo la riforma del terzo settore, diciamo e prendiamo atto che dobbiamo aiutare invece che ostacolare i privati, persone, imprese, associazioni di imprese, eccetera, eccetera, e dall'altra parte diciamo, però viene prima il saldo pubblico, e se viene prima il saldo pubblico viene meno l'obiettivo dell'incentivo, non lo so. Questo guardi, non lo deve dire a me, ma lei sa benissimo che in Parlamento se nessun provvedimento passa se non c'è la famosa bollinatura della ragioneria generale. Ma se noi vogliamo però più risorse per chi dà risposte in Italia, per esempio a ciò che il welfare pubblico non avrà mai le risorse per far sostenere gli anziani, a affrontare le patologie inabilitanti eccetera eccetera, oltre che darsi da fare in tutto il mondo, è ovvio che dobbiamo fare un trasferimento di risorse incentivante, altrimenti noi utilizziamo solo la non risposta che viene dal pubblico e continuiamo a frenare le risorse. Guardi, io non lo faccio, io non è che ho la bandiera del terzo settore, dico che è proprio la logica che secondo me è sbagliata. Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, si poteva fare di più se vogliamo dare un impatto positivo nel lungo periodo. Tra l'altro io penso che facendo dei calcoli sul lungo periodo, alla fine non c'è una diminuzione di risorse pubbliche, insomma c'è un impatto positivo su tutta la società, vabbè, ma questo è evidente per il ruolo che fa il terzo settore, e soprattutto il fatto di fare una riforma che permette di strutturarsi, eccetera. Però dico anche che meglio così oggi, nella speranza che domani che possa evolvere per me. Allora, un minuto adesso di pausa come al solito per informazioni di servizio sul traffico e poi torniamo con Giampaolo Silvestri, segretario generale dell'AFSI, a parlare di questo bilancio, di questa riforma dopo anni e anni del terzo settore. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati. Stiamo parlando insieme al segretario generale dell'AVSI, una meritoria, straordinaria protagonista insieme a tante altre del mondo del terzo settore, impegnato in programmi di sostegno, sviluppo, offerta formativa in molti paesi nel mondo, Giampaolo Silvestri. Abbiamo visto alcuni punti critici, almeno a nostro giudizio, del complesso di riforma, a cominciare dalla parte fiscale. Si poteva e si doveva fare di più, però la politica non riesce a mettersi la mano sulla coscienza e a capire che bisogna trovare le coperture per adottare incentivi fiscali ai privati analoghi a quelli del resto del mondo, e invece lo facciamo, ma con molta prudenza. Io ho dei dubbi molto anche su tutto questo apparato burocratico del registro nazionale. Che dice Giampaolo Silvestri? Sì, no, lì l'aspetto che mi preoccupa di più è che per la riforma, diciamo, per entrare, per essere operativa, ha bisogno, secondo l'ultimo dichiarazione anche del sottosegretario Bobba, di 32 decreti. Cioè, la roba! Capisce che... Ma possibile 32 mai? 32 decreti per entrare in vigore sui vari aspetti presuppongono una burocrazia che... Ma no, ma presuppongono 5 anni. Siamo realisti, non meno di 5 anni di periodo transitorio. Ma è possibile mai, caro Cartoletti? È quello che preoccupa di più. È quello che preoccupa di più, perché... Tra l'altro il Ministero del Lavoro, che dovrebbe diventare, esatto, il riferimento ultimo, non ha anche i mezzi, le strutture in termini proprio anche di risorse umane, perché appunto il registro unico vuol dire che tutti i vari registri confluiscono lì, quindi bisogna che si strutturi anche, e la vedo difficile in un periodo di un anno di elezioni, 32 decreti che marciano a sprombattuto con Corte dei Conti. E questo è un... Poi ci saranno le elezioni di mezzo, cioè questa è una roba, siccome è molto pachidermico questo registro nazionale, centralizzato, iperburocratizzato, con l'idea di un controllo prescrittivo su ognuno, perché il problema era, no, la definizione comune, certo, ed era giusta quella lì, però io sono convinto che per 4 anni non la vediamo questa roba qui. Spero di sbagliare. Io spero qualcosa di meno, però dico che è un grosso punto interrogativo. Con le elezioni di mezzo, i politici e soprattutto le strutture del Ministero del Lavoro dovranno lavorare molto. Veniamo a un altro punto. I 5 per 1000. 5 per 1000 aveva tre problemi in età, cioè quella forma di libera scelta del contribuente nelle sue dichiarazioni a favore di soggetti di cui stiamo parlando. Il problema era l'aleatorietà anno per anno della somma, e anche lì lo Stato si riservava di stabilirla ex post, una volta noti i suoi saldi di cassa. No, no, mi pronuncio, avete già capito come la penso. Poi la seconda era il ritardo tra la ripartizione secondo i criteri e la messa in pagamento. Il terzo erano i criteri stessi, a dire la verità un po' discutibili, ma però quelli sono superati oggi con la definizione comune di imprese del terzo settore. Lei che dice di come si è intervenuti sul 5 per 1000, Silvestri? Il 5 per 1000 secondo me è positivo, perché vabbè, non bisogna più registrarsi ogni anno. Hanno promesso che almeno il numero delle preferenze non ci sarà un ritardo, perché questo è il problema che dice lei. Ci sono 2 anni di ritardo, capisci che 2 anni fa cosa è successo, quindi il fatto che possano essere comunicate almeno le preferenze che ogni organizzazione ha ottenuto, questo dovrebbe essere in automatico con un sistema automatico. Dovrebbe, sì, in un paese minimamente che funzioni, certo. Quindi invece oggi si vengono comunicate con 2 anni di ritardo. L'altro aspetto è che oggi ci sono più della metà delle organizzazioni registrate che ricevono meno di 100 firme. Meno di 100 firme vuol dire che ricevono complessivamente 3.000 euro. Sì. Allora, stiamo parlando di 30.000 organizzazioni su quasi 60.000. Mm. Okay? Allora, nel decreto c'è scritto che sotto una certa soglia non verranno, esatto, distribuiti, a messa al riparto. Il costo della gestione è maggiore, esatto, del beneficio. Questo è un altro aspetto importante. E poi dovranno rivedere i criteri per il riparto delle quote non assegnate. Esatto. Ricordo anche che, come ha detto Bobba in un incontro pubblico, esistono oggi, sono giacenti presso il Ministero del Lavoro 40 milioni di euro perché non si trova l'organizzazione, esatto. Si trova, l'organizzazione che ha, che in realtà dovrebbe avere titolo non per riesce ricassare. A fornire un IBAN, esattamente. Questo ci dà l'idea però di cosa fosse diventato il terzo settore nel nostro paese e di perché avesse bisogno di un intervento innanzitutto tassonomico, codificatore di chi è e quale caratteristica deve avere per avere titolo, non solo essere ammessi al riparto al 5 per 1000, ma per essere riconosciuto come soggetto del settore. Anche qua la somma che viene destinata dalla riforma a cifra stabile sulla quale non andare a cui applicare il 5 per 1000, 500 milioni, vale quello che sopra ha già detto Giannino e non voglio annoiarvi, ma come vedete è un filo rosso, cioè lo Stato pensa comunque prima a sé e io credo che qui invece è una riflessione proprio sulla natura del tipo di intervento, cioè e quindi doveva ragionare in modo diverso. Ma invece la domanda che le faccio è, ma a che cosa serve questa Fondazione Italia Sociale, che non si capisce se è una cupola di criteri di attribuzione di finanziamenti, quelli di legge, una cupola che raccoglie risorse aggiuntive, non capisco perché ciascuno si raccoglie le sue, perché c'è questa Fondazione Italia Sociale che già sappiamo sarà guidata da Manes? Io sono contento. Neanche voi. No, nessuno l'ha capito, parlando con altri soggetti come noi, cioè, diciamo così, è una realtà di cui nessuno sentiva il bisogno, nessuno l'ha chiesta e non si capisce cosa farà, perché tra l'altro va contro anche uno dei principi della riforma, che è anche quello della sussidiarietà, cioè creare un soggetto che sta sopra, che dovrebbe raccogliere, coordinare delle risorse per poi distribuirle, così sembrerebbe, però non sono sicuro di aver capito benissimo, è proprio contro il principio della sussidiarietà. No, purtroppo le sue attribuzioni sono quelle che ha detto lei, ma espresse in una maniera così vaga da consentire di capire che può fare più o meno quello che vuole. Poi la cosa pazzesca è sapere tutti. È una cosa che non viene sicuramente dal terzo settore, no, perché nessun organismo del terzo settore, a mia conoscenza, ma insomma, su questo posso essere abbastanza certo, ha chiesto che venisse creato questo organismo. Questo è veramente una cosa di cui nessuno capisce, è un corpo spurio messo dentro in qualche articolo della riforma, ma di cui appunto nessuno sentiva l'esigenza, il bisogno, nessuno lo chiesto. Allora, questo tema, scusate, io poi, cari ascoltatori, dite che sono ossessivo. Questa cosa qua è una renzata e non è una mia impressione. Questa cosa è stata proposta sin dall'inizio da Vincenzo Manes, che è un imprenditore consulente di Renzi, anni fa, nel 2014, 2015, 2016 trovate la intervista. È stata messa nella legge delega. Lui fece un'intervista in cui la definiva l'iri sociale, e la sola definizione di iri sociale mi fece perdere l'ultimo capello che avevo. Questa fondazione ha una governance in cui è la politica che decide, ci sarà un rappresentante del mondo del terzo settore e si sa già che a guidarla sarà lui. Questo potete trovarlo, tutte le fonti giornalistiche che hanno reso contatto della riforma sono unanimi nel riportare questa cosa. Io, cari ascoltatori, ve la dico, sono le classiche cose che a me fanno cadere le braccia, perché poi hai voglia di dire cambiamo l'Italia. Io spero comunque che questa fondazione non sia l'elemento di fronte al quale misurare l'intera riforma. Dobbiamo sperare che il decreto che la metterà in atto sia l'ultimo dei principi. Esatto, ecco, cioè, limitiamoci a dire questo. Io sono molto raccolgo lo spirito costruttivo di Giampaolo Silvestri. Secondo lei, per questo, comunque per il miglioramento degli incentivi fiscali, che io ho criticato, ma insomma sono migliorati, che cosa si può immaginare che arrivino di risorse aggiuntive, secondo lei, in Italia? Ma io penso tante, penso che ci possa essere un buon incremento delle donazioni anche nell'ordine di un 50%. Comunque io penso che avere anche semplificato, avere creato una detrazione per le persone fisiche, una detrazione per le persone giuridiche, questo, e aver creato un sistema unico per tutti gli enti, questo comunque fa ordine e io penso che questo no. Io mi aspetto dei miglioramenti, no. Questo tra l'altro permetterebbe poi, se ci fosse la volontà politica, di avere lo strumento che l'anno dopo basterebbe alzare la soglia. Esattamente. Cioè dopo è più semplice alzare la soglia, dire invece che il 30, il 35, il 40. Questo, cari ascoltatori, ve lo diciamo perché se, come spero, vi metterete la mano sulla coscienza e con queste nuove norme, grazie anche agli incentivi, comunque migliorati, anche se io e Silvestri faremo di più, ma comunque migliorati, decidete di potenziare la vostra donazione o di farla per la prima volta a soggetti del terzo settore, ecco, mettereste in atto un effetto slavina che ci consente poi di avere argomenti migliori per far alzare il tetto in futuro e quindi incentivare ulteriormente meglio questo canale di risorse. Ecco, io spero davvero che tutti capiremo, o comunque molti capiscano l'importanza di questo, perché chi ha idea di programmi come quello che realizza l'ABSI e tanti altri soggetti capisce che non può essere lo Stato a risolvere quei problemi, che sono problemi di fame, sono problemi di apprendimento, sono problemi di integrazione, sono problemi di dignità della vita, sono problemi di diritto alla vita, capite? Gli stati non sono fatti per occuparsi di questo. Per occuparsi di questo servono uomini, passioni, virtù, servono impegni e servono anche risorse, quelle che lo Stato si piglia per sé e che forse tutti quanti dovremmo invece dare a chi, come quelli dell'ABSI, si impegnano, hanno la vita a volte, la vita è quella di tutti i giorni, perché ci sia gente che ne abbia una altrettanto degna. Grazie all'ABSI, grazie a tutti quelli del terzo settore, ai 4.700.000 volontari sempre. Continuate sulla 24, appuntamento con me Alessandro Mina domattina alle 8.20, attenti alle 2.